פרק ה', משנה ו'. Abbiamo visto quindi nella Mishnah, nelle Mishnayot precedenti che il Kohen Gadol ha concluso di di spruzzare quel sangue del Korban sugli angoli del Mizbeach, sulle cosiddette corna del Mizbeach. E adesso la Mishnah aggiunge che c'è un ulteriore spruzzamento sul Mizbeach stesso. Vediamo come la Mishnah lo esprime. Hizza, cioè spruzza, al tahorosh el Mizbeach. Sulla purezza del Mizbeach, cioè sul Mizbeach stesso. Quindi sull'altare lui smuoveva le ceneri e i carboni in modo tale che ci sia possibilità di intravedere direttamente l'oro del Mizbeach stesso, della struttura del Mizbeach. Stiamo parlando del piccolo Mizbeach interno del Ketoret, se vi ricordate, dell'incenso. E spruzzava sopra, sulla parte più alta del Mizbeach, e lì spruzzava di nuovo, come dice la Mishnah, Sheva Peamim, 7 volte, secondo lo stesso schema che abbiamo visto le altre volte. No, questo è solo 7, perché le altre volte era uno sotto e 7 sopra. Questo è solo 7, quindi non c'è quello schema, è uno schema più semplice, che la Torah dice Vehisa alav min adam be'etzba'o Sheva Peamim. Parla di 7 volte sul Mizbeach stesso. E poi quello che rimane da questo sangue, usheyare hadam, le rimanenze di quel sangue che nel recipiente che lui sta tenendo, che se vi ricordate era mischiato dai due capri, sia quello dell'Azazel che quello che era offerto ad Hashem, hayashofech, le rimanenze le versava agli esod ma'aravi, sulla base ovest, shel Mizbeach Achitzon, dell'altare esterno, cioè tornava via dal Hechal interno, usciva fuori verso il grande altare esterno sul quale si facevano le korbanot, e lì, sulla parte ovest, c'era un punto in cui si versava, tra le altre cose, le rimanenze di questo sangue, da lì colava e scendeva verso sottoterra, diciamo. Come adesso la Mishnah descrive, non sottoterra, ma verso un canale, Eilu Veilu, questi e questi, cioè questi in questi si intende sia... Ah, scusate, ho saltato una riga, ecco perché... Allora, come dicevamo, questo sangue si versava sulla parte ovest della base del Mizbeach, ok? Veshel Mizbeach Achitzon è il sangue del Mizbeach esterno, cioè quel sangue che andava spruzzato sul Mizbeach esterno, le rimanenze che rimanevano nel contenitore, diciamo, Ayashofech al-Yesodromi, quello invece si versava sulla base della parte darom sud, di sempre dello stesso Mizbeach, e poi colavano da entrambe le direzioni eluvelu, questi e questi, cioè il sangue sia da questa direzione che da quella, mitarvin ba'ama, si mischiavano, cioè si univano nel momento in cui colavano verso la Amma. La Amma sarebbe un piccolo canale attraverso il quale si poteva far passare dell'acqua. Adesso spiego. Veyotzin le Nachal Kidron, e da lì uscivano verso un piccolo fiume, diciamo un ruscello, che si chiama Kidron. Sì? Ma qui quindi dopo aver fatto sette volte solo, Sì. usciva, andava con l'esterno, Sì. versava il sangue, spruzzava il Il sangue sangue rimanente? rimanente su ovest o No, sud? non spruzzava, No, semplicemente lo versava versava, via sì, scusa. sulla parte, sugli Ovest o es, sud? Ovest yes, vale sempre? yesod maravi, Sempre la base ovest. ovest. A ovest. Poi invece a sud cosa versava? Sud è Poi la rimanente, Mishnah l'ulteriore dice, rimanente. poi la Mishnah dice come parentesi, che altre volte quando si spruzza del sangue sul Mizbeach esterno, quello che rimane nel contenitore si versa invece sulla base Ah, sud. altre Sì? volte. Ok. Ah, non avevo capito. Allora, sull'angolo sud-ovest, appunto, dove poi si univano, no? Sud-ovest di questo Mizbeach. Sulla base del Mizbeach, perché la base era come una fuoriuscita, una pertuberanza che usciva fuori di una amma, di un cubito, diciamo circa mezzo metro. Su quel Yesod, su quella base c'erano due piccoli fori, due buchi, che uno è rivolto verso ovest e uno è rivolto verso sud. Sull'angolo sud-ovest c'erano due buchi, uno rivolto verso sud e uno rivolto verso ovest. E lì si versava, come abbiamo visto nella nostra Mishnah, le rimanenze del sangue. Ok? Ora, ci sono alcune korbanot di cui il sangue andava versato sull'ovest e alcune korbanot di cui il sangue andava versato sul sud. E ogni situazione con la propria motivazione, in base a che tipo di Corban è, che adesso non entriamo in questo dettaglio. Quando Sì. versava questo sangue, non è che verso sud o verso ovest, lui si girava e se lo faceva e poi si girava dall'altra parte il sangue quando colava, no? Sì. Per farlo colare ad ovest si prendeva La domanda è da quale direzione parte? Che poi arriva va? allo No, stesso ma angolo, lui il Cohen. quando il Cohen versava si girava verso la direzione. E poi si No, girava verso l'altra. non è importante dove si girava, è importante da Dove? quale direzione arriva il sangue, in modo tale se scende dalla parte ovest è un angolo, no? Allora se lui sta qui arriva dall'angolo ovest, se sta qui arriva dall'angolo sud. Forse stiamo dicendo la stessa cosa. L'importante è che L'importante esca e è che vada il verso una certa sangue deve parte. essere fatto confluire Perché, nella direzione perché, giusta. Ci sarà un il, motivo. sì, perché il sangue di Deve alcune andare korbanot verso una. deve stare a sud, Ma il c'era la sangue di domanda che volevo alcune. fare pure io. Ci sarà una logica per cui deve uscire. Sì, quello aveva chiesto. No, pensavo che lui si girava e versava verso. Allora vi spiego la logica. La logica, diciamo, No, tutto questo perché è una logica così. sua. Perché Cioè, così mi dà l'impressione. praticamente. Ci sono alcune korbanot, come abbiamo anche visto noi nell'ultimo capitolo, ci sono alcune korbanot di cui il sangue della Shechitah viene spruzzato un po' di questo sangue all'interno, cioè dentro l'Echal. Ok? E altri invece korbanot che vengono, il loro sangue spruzzato solo sul Mizbeach esterno. Allora, il sangue che è legato a quella parte interna, le sue rimanenze vengono versate sulla parte ovest, che la parte ovest è quella che è rivolta verso l'interno, verso il Kodesh HaKodashim. E invece le altre korbanot che sono legate al Mizbeach esterno, il loro sangue viene versato sulla parte sud, che è quella più esterna rispetto all'interno del Bet HaMikdash, il Kodesh HaKodashim. Questo è lo schema delle cose, diciamo. Ed è alluso, la Gemara ne parla, è alluso nei versetti della Torah che parlano di questo. Ok? Questo è il senso. Allora, cosa dice la Mishnah? La Mishnah dice che da entrambe le direzioni poi in realtà scendevano verso la Amah. Amah vuol dire un piccolo canale di acqua che passava attraverso l'interno del Bet HaMikdash da un lato all'altro, cioè da nord a sud. Che è la parte stretta, okay? La parte lunga è da est a ovest, la parte stretta è da nord a sud, passava e c'era questo ruscello del Kidron, che praticamente quando volevano pulire il Beit HaMikdash alla fine della giornata, aprivano la valvola da un lato e l'acqua entrava, e dall'altro lato chiudevano la valvola. Quindi facevano, come si dice, spongia oggi in Israele, cioè il lavaggio del pavimento avveniva in questa maniera, l'abbiamo anche già visto prima, che si riempiva tutto di acqua e poi si apriva l'altra valvola dall'altra parte e si chiudeva da questa parte e usciva tutto con tutta la sporcizia rimasta dalle korbanot. Ora vediamo una cosa interessante alla fine di questa Mishnah che stiamo studiando qui. La Mishnah conclude con la frase dicendo Venimkarin la gananin le zevel. Queste rimanenze che poi uscivano fuori da questo canale li raccoglievano poi all'esterno e li vendevano gananim, mase gananim, giardinieri. Lo usavano per concime. Bravissimo. Lo vendevano ai giardinieri per concimare. Però la Mishnah subito mette una condizione e dice Umoalim Bahem. Cosa vuol dire Umoalim Bahem? Ora vi spiego. Moalim è un verbo che viene dalla parola Me'ilah. C'è un trattato di Mishnah, di Talmud, che si chiama Me'ilah. Ora, cosa vuol dire Me'ilah? Me'ilah vuol dire, non so tradurre in maniera precisa, però vuol dire praticamente abuso, uso improprio di oggetto sacro o di proprietà del tesoro del Beit HaMikdash. Sto pensando. Allora, per noi è vietato, chiaramente, un uso improprio o non autorizzato di un oggetto del Beit HaMikdash. Può essere, per esempio, se un animale è di proprietà del tesoro del Beit HaMikdash, non puoi poggiare il tuo cappotto se sei stanco su quell'animale. Per dire, anche una cosa così estrema, così a maggior ragione non puoi usarlo per tirare l'aratro o per esempio, no? Ok. Questo si chiama Me'ilah e c'è tutto un che vuol dire Mo'alim Bahem? Oh, allora adesso ti spiego. Un Mo'alim Bahem vuol dire che si applica la regola di Me'ilah anche a questi scarti. Ah, ok. Vuol dire che per questo dice che bisogna venderlo ai giardinieri. In teoria non è che ci dobbiamo fare un business. Lasciali prendere che non è uno scarto, non ci interessa. No, deve essere venduto perché nella vendita si trasferisce la proprietà, non è più di proprietà del Beit HaMikdash e allora non c'è la Me'ilah. Un Mo'alim Bahem vuol dire se non ci fosse un trasferimento di proprietà sarebbe vietato per Me'ilah. Chiaro? Questa cosa si applica anche a parte il Beit HaMikdash, si applica anche ad altre cose per noi. Beh, la legge di Me'ilah si applica a cose che si chiamano Kodashim, cose santificate, che in qualche maniera sono legati al Hekdesh. Non devono essere per forza legati al Beit HaMikdash, ma anche se sono di proprietà del tesoro del Beit HaMikdash, della cassa del Beit HaMikdash, rientrano nel concetto di Me'ilah. Esiste l'idea di corruzione, di abuso in altri contesti, però non si chiama Me'ilah. Si chiama in altro modo. Sì. Me'ilah è specifico del Hekdesh, cioè di ciò che è del sacro, diciamo così. Ci sono le cose che una volta vendute, alla fine puoi fare, quindi non è un uso improprio, alla fine se l'ho venduto, devi vendere. Esattamente. Perché non è vendere. Vuol dire, se il Beit HaMikdash... Se si può vendere, già vuol dire che c'è un grado di sacralità diversa, se te lo posso dare... È vero. Voi, per certi versi, no? Esatto, perché è giusto. Facciamo un esempio. Se una persona fa un voto, per esempio, e dice, io ho queste 100 bellissime bestie, voglio donare 10 di queste bestie al Beit HaMikdash. Allora, adesso queste 10 bestie appartengono alla casa del Beit HaMikdash. Se tu li usi, rientri nel divieto della Me'ilah. In qualche maniera li usi, rientri nel divieto della Me'ilah. Il Beit HaMikdash che ha questi beni, queste 10 bestie, può farci, il tesoriere del Beit HaMikdash, può farci quello che ritiene più utile. Può venderle, ottenere del denaro con quel denaro, si trasferisce la Kedushah a quel denaro e le bestie sono bestie normali. Differenza sarebbe, e questo è il caso di questo sangue, ok? Si vende e il ricavato rientra nel concetto di Kodesh, e il sangue esce. Però se una persona dicesse: questa bestia la rendo un korban, cioè devo fare lo scampato pericolo, che richiede l'offerta di un korban, korban todah si chiama. Io questa bestia diventerà un korban todah. Non c'è più modo di riscattarlo da quello. Deve necessariamente essere quella bestia ad essere portata come korban todah. Non puoi venderla o scambiarla per un'altra. È un divieto scambiare per un'altra bestia. C'è un altro trattato che si chiama Temurah. Se tu scambi una bestia per un'altra, tutte e due ti ottengono la Kedushah. È vietato. È scritto sulla Torah. Hu utmurato yeh kodesh. Lui e il suo scambio, entrambi rimangono, diventano kodesh. Per dire, ci sono tante sfumature in come funziona questa cosa. Se è un bene che appartiene al Beit HaMikdash, c'è la Me'ilah, ma c'è spazio per gestire vendita, eccetera. Cioè, se invece è proprio un korban o una cosa simile, allora è diverso, è più della Me'ilah. Un altro, capito? Non ha un peruloso diretto mirato nell'ambito della Kedushah. Esattamente, semplicemente appartiene, come può essere un bene immobiliare che può uno lascia un lascito alla casa del Beit HaMikdash. Loro fanno quello che ritengono opportuno. Scusa, posso fare una domanda? Non so se sono fuori di tema, però chiedo scusa. Tutti questi corbanotti descritte in maniera così minuziosa, e valgono o valevano finché c'era il Beit HaMikdash. Esatto. Ok, e oggi sono sostituite dalle tefillot. In parte. In parte, chiaro. Ok. Nel caso, se Dio vuole, ci fosse Bezrat Hashem, ci sarà un nuovo Beit HaMikdash. Si costruisce il Beit HaMikdash o meno. E così minuziosamente si ritorna a queste Mishneot? Certo. No, volevo... Cioè, sì, nel senso. Sulla logica, noi siamo tenuti a riprendere questi animali. Per questo che lo studiamo, mi sa. No, scusate, io per no, sapere, è cose è un'ottima domanda. Credo, così antiche, no, così sto dicendo, credo che no, allora, logica. Questo no, volevo dire. Se fare queste cose, sì, oggi, cioè, come oggi, oggi è abbastanza. Devo uno lo inquadra in modo un po'. Cioè, vedere leggere tutte queste cose o meno. A me mi riporta. Non è ma che è tutto non... oggi. No, no, no, no, no, no, ma scusate, allora, scusa. Tutto oggi si fa. Perché devi chiedere scusa? È la domanda che la prima domanda logica che uno si fa. E la risposta è questa. Prima di tutto, quando noi leggiamo queste cose ci sembrano così lontane, così strane, perché sono così esterne alla nostra esperienza immediata. Questo dico io. No? Dico, siccome io invece. Ci sembrano oggi, delle cose. Oggi non so, cioè, mi tentavo di immaginarmi di vedere oggi. Immaginare una situazione. Se Dio vuole, esatto. Una cosa simile. Una cosa così bella. Esatto. Allora, ci sono alcune cose di cui tenere conto. La prima cosa è che la Torah non cambia. Cioè, questo. Così come i tefillin sono gli stessi da quando abbiamo ricevuto la Torah fino adesso, se ci sono le condizioni giuste, anche le korbanot sono le stesse. Certo. Non è che una mitzvah della Torah può essere abrogata in qualche maniera. Il problema qui è più che altro la nostra cultura occidentale moderna che non riconosce, diciamo, non si riconosce in questo tipo di culto, diciamo così, perché è un culto. E quindi forse quando verrà Mashiach, sicuramente ci porremo il problema, speriamo che sia oggi, però forse potremmo anche dire che il nostro punto di vista cambierà, perché c'è pure la lapidazione fino alla morte, che forse va anche quello che fa è scritto. Allora su quello forse. Dico un'altra cosa, però su questa cosa delle korbanot, veramente lo stava dicendo anche William prima, in realtà cose molto simili avvengono anche oggi nella nostra esperienza, ma non ce ne rendiamo conto per l'industrializzazione delle cose. Okay. Quando noi mangiamo la carne, sì, sì. Cosa c'è dietro? Sì. Molto simile a quello di cui stiamo leggendo qui. Qui ci sono dei riti in più alla semplice macellazione, la stessa, perché la shechita del Corban è la stessa che noi facciamo oggi. Sì. Il Corban, la macellazione, la macellazione stessa, è esattamente la stessa procedura che noi facciamo per la shechita oggi. Non c'è alcuna differenza. Quello che c'è in più, diciamo, sono i riti, lo spruzzare il sangue, il fatto che alcune parti di queste korbanot vengono poi arse sull'altare, no? Ok, però se noi togliamo dal contesto, molte persone sciartano la carne e poi vanno a arderlo sul barbecue, per dire. Cioè, se noi, no, capito, se capito, noi cambiamo no, un po', non è così strano quanto sembra. Esperienza e trovato sì, una... veramente non è così strano quanto sembra. E quello invece che è strano, strano nel senso va capito meglio ed è approfondito non nel contesto di Mishnah, ma più nel contesto cabalistico, chassidico, magari avremo anche modo, è la rilevanza e l'importanza per dire quello deve essere un capro, quello deve essere una pecora, quando c'è il toro, quello deve essere il toro, quello deve essere la colomba. Cosa è il significato di queste cose? Perché chiaramente va al di là del semplice. Allora, ovviamente anche quello va visto su molti livelli, perché nel senso più semplice la Torah dice ognuno vuole fare qualcosa, però ognuno secondo le proprie possibilità. Quindi c'è la possibilità di... c'è il Korban Ani, proprio il Korban del povero, il Korban Ashir, il Korban del ricco. È lo stesso Korban con la stessa validità che per un povero può essere o semplicemente, nel caso più estremo di povertà, un Korban minerale, cioè vegetale minerale, cioè di farina e olio, sale, farinaceo, e contrario di quello ricco che può permettersi il toro, per dire, no? Che è una cosa molto costosa, non è... Forse va anche riportato appunto, lo dici... È per quello che te lo stavo dicendo. Ecco, ok. Che c'è questa... Il toro può significare... Questo è un senso più tecnico della cosa, però nel senso più mistico della cosa ci sono anche dei significati che, tra l'altro, li guadagniamo anche, che rimangono rilevanti sempre. Anche nell'assenza dell'aspetto fisico della cosa, perché se noi parliamo di, per esempio, sacrificare la pecora o sacrificare la vacca, si parla anche della pecora che è dentro di noi o la vacca che è dentro di noi, nel senso che, abbiamo parlato nelle lezioni di Chassidut, dell'anima animale, e ognuno ha un suo animale, vuol dire ogni animale è diverso dall'altro. Uno che è più simile a una pecora, cioè più calmo, più però è sempre animalesco, va sempre in un certo senso sacrificato, cioè sacrificato vuol dire portato un po' verso l'alto, non sacrificato, ucciso, non in questo senso. La parola shchita è legato alla parola meshicha, portare verso di sé, portare a sé. Nel senso tecnico il coltello va portato a sé, no? Va fatta questo movimento, però nel senso spirituale portare verso l'alto. Cioè sciachtare una parte di se stesso non vuol dire ucciderlo, vuol dire elevarlo. Ok? Allora si spiega nella mistica in dettaglio ognuno di questi dettagli, perché la Torah, a differenza di molte altre mitzvot, nelle Korbanot, nel libro di Vaikra, entra proprio minuziosamente. E ognuno di questi dettagli ha una rilevanza di anima, anche sempre rilevante. Ma poi giustamente hai detto che probabilmente a Monte Aiuto cambierà, potrebbe cambiare, è plausibile, la nostra prospettiva, la nostra visione. Io credo che anche questa è una possibilità, ma anche senza quel cambiamento comunque abbiamo modo di trovare moltissimo significato. Sì, ma sarà importante quello, avrà il suo peso. Sì, sì. Scusa, l'avvenuta del Mashiach non potrebbe cambiare dopo tutti questi minaghim, tutti questi yudi della Torah, il fatto che viene... Faccio riferimento a una parola che... Prima ascoltami. Che la Torah non si cambia. Allora per questo mi devi ascoltare. Tu hai detto minaghim. Minaghim sono usanze. Sì. C'è una differenza tra mitzvot, cioè precetti della Torah, e usanze. Usanze potrebbero cambiare quando viene Mashiach. Mitzvot non possono cambiare. Allora, i sacrifici fanno parte delle mitzvot. Yes. Okay. Per questo ho detto prima. Questo è importante. Sì. Fanno una gran parte dei 613 mitzvot sono quelli legati alle korbanot. Una grandissima parte. Poi un'altra domanda, scusa. Sì. Sono curioso. Il sangue. Quello che cosa rappresenta il sangue? No. Sì. La vita. Il fatto che. Anche il calore. Il sangue che viene versato poi va venduto. Va venduto al giardino. Quello che è scartato viene venduto. Però sempre proprietà del Migdash, del Beta Migdash. Per questo va venduto. Per questo. Il Betamigdash percepisce una somma o percepisce certo. Una cosa. Questo qua, che valore ha questo soldo? Questo usato per vendere come? Perché è più sacro. Sì, sì, ha il codice. Quello che va al Betamigdash sono tutti i doni della gente. Sì, sì, sì. Invece qua, il resto del dono, il Betamigdash è come se prende il toro che è stato sostenere in qualche e modo, lo vende, ma è lo trasferisce. Dunque trasforma, va a diventare un'altra cosa. Quella somma non è uguale per il Betamigdash. Non è uguale. Sì, ma comunque rientra nel Hekdesh, cioè è proprietà, esatto. Proprietà del Betamigdash e quindi ha un certo criterio di come va trattato. È un commercio praticamente, se tu lo vai a vedere. Sì, nel senso, una logica. Ma qual è il motivo di questa vendita? È per uscire dalla bravo. Cosa. Leo? Non fa niente. Dai. No, nel senso che, pensavo a quello che diceva Tony. Sì. Che giustamente sembrano cose lontane, no? Sì. Però io mi scontro continuamente con queste cose, sempre. Perché alla base sono lontane da noi perché sono descritte nella Mishnah con una cosa tecnica. Bravo. Quello va fatto così. Certo. Se la gente sapesse perché il sangue si va verso ovest, perché si usa questo animale piuttosto che un altro, sarebbe molto più vicino a tutti. Perciò bravo. Per questo abbiamo la... in questo modo non rimane in mente, Rav. Mi spiace, scusami. No, io non c'è nessun rilego, problema. Io non lo ritengo. Se io so, tu mi dici, in questa Mishnah si usa il sangue, ok, che cos'è il sangue? Questo. Perché siamo ignoranti. No, non è questo. No, lui sta dicendo un'altra cosa. Stiamo studiando il tecnicismo. Lui... Ma non serve che viene Mashiach, se tu approfondisci, non ti serve Mashiach per capire. Ma arriverà il momento per chiarire anche questo. Leonardo, questo è il motivo che abbiamo la Hasidut. Lo so, per spiegare questo aspetto. Però a me questo sì. Trasli in una maniera spirituale, cioè ci sono tanti significati. Esatto. Se tu lo vedi in senso tecnico, lui sta dicendo che non si ritrova nel senso tecnico della cosa. Né questo, né il Talmud, con questa difficoltà, perché non è una difficoltà, è una disposizione. Non ci riesco. Appunto, una cosa che anche se traslata sembra appunto delle informazioni oppure un libretto di istruzioni per un macellaio. Allora, posso dire una cosa? Certo. Non ci mancherebbe. Giusto se vuoi, va. Ma guarda, lo concediamo. Sentiamo il tuo parere. Ormai facciamo noi le lezioni. Tanto parlavo di noi, proprio. Allora, obiezioni. Abbiamo anche detto all'inizio del corso, ci sono molti aspetti della Torah. Allora, se uno non partecipa a un corso, diciamo, vuole studiare Torah, che cosa studia della Torah? Il Talmud dice Leolam il mod adam be makom shelibo hafetz. La persona deve studiare ciò che desidera studiare all'interno della Torah, ciò che lo attrae di più. Perché è chiaro che la diversità di modalità di studio, di regimi di studio, di aspetti all'interno dello studio della Torah stessa è anche una cosa legata alla diversità nelle persone. Torniamo all'animale. Esatto, ognuno è diverso. Bravo, bravissimo. Ognuno è diverso, ogni animale di ognuno è diverso e quindi magari per una persona richiede più, è come nel nutrirsi materialmente dall'alimentazione. C'è chi piace. C'è a chi piace questo, c'è a chi piace quello, ma se andiamo a vedere in profondità, molto spesso... A quello piace questo perché è quello che il suo corpo in realtà richiede. che le vitamine contenute in quel tipo di cibo sono per lui più necessarie rispetto a altre. Un altro è attratto da un altro tipo di cibo perché magari ha bisogno di quei zuccheri lì. È uguale nel nutrimento dell'anima. È vero che ogni ebreo dovrebbe cercare di studiare almeno un po' di ogni parte della Torah, però è anche vero che la nostra anima animale è anche attratta da diversi aspetti che fanno risentire di più, che forse abbiamo bisogno di più. Allora non c'è in questo un difetto. Va solo capito bene il contesto in cui ci si trova per sapere cosa aspettarsi. Dire, quando noi studiamo Mishnah, il senso della Mishnah è proprio quello di trasmettere questi aspetti qui tecnici. Perché anche serve anche il manuale di istruzioni tecnico, non basta solamente la parte spirituale, se no poi come si applica? Allora questo è il manuale di istruzioni tecnico e abbiamo altre opere che ci danno un manuale di istruzioni più astratto, più teorico, più legato allo spirito, all'anima. Basta, quello volevo dire. Leo, scusami, se volevi dire qualcosa. Ti ha convinto? No, ma ho capito quello che... No, non è una questione di convincere o meno, no, cercare di spiegare i contesti. Lui la vuole più dettagliata. Non più dettagliata, la vuole in un altro piano, in un altro piano. Beh, ma arriveranno anche... proprio così. Io queste qua sono più attratto da, per esempio, quasi tutto meno, ma senza questo... L'aspetto tecnico. Sì, è vero. O comunque sono più attratto anche in astratto, è anche più spirituale. Bravo, mi hai fatto dire... Voglio aggiungere un'altra cosa in base a questo. Capire bene l'aspetto astratto dipende anche dalla comprensione della parte tecnica. Entrambi sono reciprocamente. Bravo, la cosa è reciproca, perché una ci aiuta a capire l'altra, nel senso che tu studi la parte astratta, ma non sai a che cosa si applica. Certo. Allora devi prima sapere, allora esiste questa mitzvah e si svolge in questa maniera. Ora sappi che si nasconde qui dietro. Ok, certo. Quindi è... No, ma è giusto, però per fatto di... guardo sempre su di me, per come sono fatto io, dovrei capire prima la parte e poi quella tecnica. Ok. Io capirei meglio così. Va bene. Allora prossima volta fai i compiti prima, guarditi la parte di Hasidut. Così lo capisco. Va bene. Lo capisco, al contrario. Ok, concludiamo il capitolo. Mishnah Zain, settima Mishnah di questo quinto capitolo. La Mishnah dice, Kol ma'aseh Yom HaKippurim, Ha'amura la seder, tutto ciò che riguarda il servizio di Yom HaKippurim, tutto ciò che viene fatto, ma se viene messo in atto nella avodà del Kohen Gadol, abbiamo spiegato diversi tipi di servizio che faceva nel Kodesh HaKodashim, fuori dal Kodesh HaKodashim, eccetera. E ci stiamo riferendo specificatamente a quelle cose che vanno fatte per Kippur, non tutto ciò che fa il Kohen Gadol in quel giorno, perché lui fa anche delle cose che si fanno tutti i giorni. In specifico le cose che fa perché è Kippur, e alcuni commentatori dicono le cose che fa quando è vestito con le vesti bianche, perché il Kohen Gadol per 5 volte durante il giorno di Kippur si cambia le vesti bianche quando svolge le funzioni speciali di Kippur e entra nel Kodesh HaKodashim. Allora, tutte quelle cose lì che noi l'abbiamo studiate in questo trattato, in un certo ordine, Amur ala Seder, prima questo, poi quello, eccetera, Im hikdima se la chaverò, se ha anticipato un atto a un altro, quindi ha cambiato l'ordine di cui noi parlavamo qui, lo asaklum, è come se non avesse fatto niente, cioè deve ripetere nell'ordine corretto. E anche questo la Gemara spiega nel trattato appunto di Yomà, che è il Talmud legato a questa Mishnah, si basa su quanto è scritto nella Torah, quando la Torah ricapitola tutto ciò che va fatto in quel giorno. Quindi l'ordine è importante, e non solo è importante, è essenziale. Nella mancanza dell'ordine manca la validità del servizio. Poi la Mishnah dice... Da un esempio pratico. Hikdim dam ha-sa'ir le dam ha-par. Noi abbiamo detto che prima spruzzava il sangue del toro e poi il sangue del capretto, vero? Questo abbiamo studiato anche in questo capitolo prima. Se in lui invece ha anticipato quello del capretto, Hikdim, Kodem, ha reso prima quello del Dama Sair, quello del capretto, e dopo Dama Par, dopo quello del toro, cosa deve fare? Deve ristruzzare quello del capretto, dopo Yahzor, torni, Yazè, e spruzzimi Dama Sair, Leachar Dama Par. Dopo aver spruzzato quello del toro, torna a spruzzare di nuovo quello del capretto per mantenere l'ordine giusto. Ve'im ad shelo gamar et ha-matanot shebifnim nishpach adam. E se prima di concludere lo spruzzamento del sangue all'interno, bifnim vuol dire all'interno del Kodesh HaKodashim, nishpach adam, il sangue è andato perso, si è versato per terra, è andato perso, e quindi non può concludere lo spruzzamento che poi lo riporta fuori e fa sul misbeach interno e poi, no? Sul misbeach, sui quattro angoli e poi sull'oro del misbeach stesso, come abbiamo visto oggi. Cosa deve fare? Cominciare a ammazzare un altro. Bravo. Yavi damacher, deve portare un sangue nuovo, cioè una nuova shechita. Ve'yachzor ve'yazè batchila bifnim. E deve tornare a rifare anche quelli interni, cioè deve mantenere tutto l'ordine con lo stesso sangue, cioè dalla stessa shechita. Quindi un'altra bestia va shachtata, va portato di nuovo il sangue all'interno del Kodesh HaKodashim e poi torna verso fuori e continua con il Mizbeach interno, eccetera. Anche il toro cambiano tutto. Questo si è sbagliato, l'ultima cosa. Questo si è perso il sangue, si è perso il sangue. Si è perso il sangue. Non può fare, cioè anche se ha spruzzato già dentro ma non ha fatto in tempo a fare fuori, ha perso il sangue, deve rifare tutto da capo. Magari ne ha spruzzato troppo, gli è caduto, quello che è. Non fa niente, quello che qualsiasi motivo può cadere, non ha qualsiasi fatto. Ken Bahechal, la stessa cosa riguarda gli spruzzamenti che si facevano nelle Hal verso la Parochet, se vi ricordate, fuori dal Kodesh HaKodashim, ma verso il Parochet che divide tra il Kodesh e il Kodesh HaKodashim. Anche lì, se il sangue è stato perso, prima di finire questi spruzzamenti, deve portare un nuovo sangue e ripartire da capo con questi spruzzamenti. Vehen bemisbach zahav, lo stesso riguarda anche la terza volta che spruzza, cioè sul misbeach di oro zahav, quello interno che abbiamo detto oggi, e l'altra volta sugli angoli e poi sul misbeach stesso. Anche lì, se non ha finito di spruzzare lì e il sangue è stato perso, deve riniziare da capo. E la Mishnah spiega shekulan kapara bifnei atzman. Ognuna di queste funzioni, cioè lo spruzzare il sangue all'interno del Kodesh HaKodashim e poi all'esterno ma verso la Parochet e poi all'esterno ma sul Mizbeach, ognuna è una kapara, una funzione di espiazione separata. Di conseguenza, se il sangue si è versato, si è perso dopo una di queste, per esempio quello del Kodesh HaKodashim l'ha già fatto, ora, durante lo spruzzare della seconda volta verso il Parochet, ha perso il sangue, allora quando rifà la Shchita e riprende il sangue, non deve rifare quello del Kodesh HaKodashim. Quella capara è già stata fatta. Deve riniziare questa durante il quale si è perso il sangue. Ognuna è una capara distinta dall'altra. Quindi quella che è stata fatta è valida, l'ordine è stato mantenuto, però va rifatto quella durante il quale il sangue era stato perso. Io prima avevo capito che dovesse tornare a quello interno. No, se l'ha perso dentro. No, ho capito quando. Ovviamente. Quindi solo quello che è in corso di perso. Quello no, abbiamo detto, se ancora non ha finito lo spruzzare dell'interno, in ace lo gamare tamatanoce bifnim. Se quegli spruzzi non ha finito, deve rifare. Non aveva finito gli spruzzi. Sì, questo la Mishnah ha anticipato. E poi la Mishnah conclude dicendo, portando una opinione diversa, Rabbi Elazar e Rabbi Shimon omrim, due maestri della Mishnah, Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, sono invece dell'opinione Mimekom shepasak, dal punto in cui ha interrotto Mishamu Matril, da lì riprende. Cioè se ha fatto tre volte e ha perso il sangue, quando rifà il corbane e riprende il sangue, fa quattro volte, perché ha già fatto tre, deve fare solo quattro, perché sono sette in tutto, no? Non deve rifare. Ah, riprende da dove ha finito. Da dove ha finito, non aveva più. Secondo loro ogni spruzzo è una mitzvah di per sé, non solo ogni gruppo di spruzzo. Però la halakha finale non segue queste due opinioni e segue invece quanto abbiamo detto prima nella Mishnah, che ogni gruppo di spruzzi è a sé ed è una kapara. Ah, quindi ogni spruzzo è un'altra visione, un'altra... Secondo questi secondo due, visione. Ma non con la, secondo la halakha, come abbiamo detto prima. Con questo abbiamo concluso il quinto capitolo del trattato di Yomah.